Il terzo anello, ad alta voce. Luciano Virgilio legge La cripta dei Cappuccini di Joseph Roth, traduzione di Laura Terreni. La taverna di Jadlovker era sempre aperta, giorno e notte. Era la taverna dei disertori russi, cioè di quei soldati dello zar che con la persuasione, l'astuzia e la minaccia venivano costretti dai numerosi agenti delle società americane di navigazione a lasciare l'esercito e a imbarcarsi per il Canada. Certo, ce n'erano molti che disertavano spontaneamente, anzi, pagavano gli agenti con gli ultimi soldi di cui ancora disponevano, loro o i loro parenti. La taverna di confine di Jadlovker passava per quello che si dice un locale malfamato. Ma come tutti i locali malfamati di quella zona, era affidato alla particolarissima benevolenza della polizia austriaca di confine, e perciò era, per così dire, sia sotto la protezione, sia sotto la vigilanza sospettosa delle autorità. Quando arrivammo, avevamo camminato per mezz'ora muti e depressi, il grande portone color ruggine a due battenti era già chiuso e spenta perfino la lanterna appesa lì davanti. Dovemmo bussare e il garzone Onufri venne ad aprirci. Conoscevo la taverna di Jadlovker, c'ero già stato un paio di volte. Conoscevo l'abituale baraonda che generalmente vi regnava, quel particolare baccano che fanno quelli che d'un tratto si trovano a non aver più patria, i disperati, tutti coloro che in realtà non hanno un presente, ma che ancora stanno appunto a mezza strada fra il passato e il futuro, fra un passato familiare e un quanto mai incerto futuro, simili a passeggeri che si imbarcano nell'istante in cui, per un ponticello traballante, passano dalla terraferma alla nave sconosciuta. Ma oggi c'era silenzio, un silenzio inquietante. Perfino il piccolo Capturak, uno degli agenti più zelanti e rumorosi, che era solito dissimulare sotto una sospetta solerte loquacità le molte cose che a dissimulare era costretto dalla professione e dalla propria natura, sedeva oggi muto nell'angolo, sulla panca della stufa, più piccolo, più meschino di come era in realtà e quindi doppiamente inesistente, una silenziosa ombra di se stesso. Non più tardi di due giorni avanti aveva fatto passare il confine a un cosiddetto turno, o come si usava anche dire nella sua professione, a un carico di disertori. E ora c'era il proclama dell'imperatore affisso ai muri. C'era la guerra. Perfino la potente agenzia di navigazione era impotente. Il potente tuono della storia universale faceva ammutolire il piccolo loquace Capturak e il suo grande fulmine lo riduceva a un'ombra. Con lo sguardo vuoto e fisso, i disertori, le vittime di Capturak, sedevano davanti ai loro bicchieri vuotati solo a metà. Prima, ogni volta che ero andato nella taverna di Jadlovker, avevo osservato, col piacere particolarissimo di un giovane leggero che nelle manifestazioni di frivolezza degli altri, anche dei più estranei, vede la legittimazione della propria incoscienza, avevo osservato, dicevo, la spensieratezza di coloro che erano appena espatriati, i quali vuotavano un bicchiere dopo l'altro e da capo uno dopo l'altro ne ordinavano. L'oste Jadlovker in persona sedeva dietro al banco di mescita come un annuncio di sventura, anzi, non un messo della sventura, ma la sua personificazione. Si vedeva che non aveva la minima voglia di riempire altri bicchieri, neanche se i suoi clienti l'avessero chiesto. Che senso aveva ancora tutto ciò? Domani, dopodomani, potevano esserci i russi. Il povero Jadlovker, che appena una settimana prima se ne stava seduto lì col suo pizzetto d'argento in tutta la sua maestà, una sorta di borgomastro fra i tavernieri, coperto e assicurato dalla tacita protezione delle autorità, non meno che dalla loro onorifica diffidenza, aveva ora l'aria di un uomo che debba liquidare tutto il proprio passato, di una vittima della storia universale, per l'appunto. E ugualmente la ponderosa cassiera bionda accanto a lui, dietro il banco, era stata, per così dire, licenziata, quasi in tronco, dalla storia universale. Ogni faccenda privata era ad un tratto passata nel regno di ciò che era pubblico. Lo rappresentava, ne faceva le veci, lo simboleggiava. Perciò il nostro commiato fu così breve e insoddisfacente. Bevemmo semplicemente 3 bicchieri di romele e ci mangiammo in silenzio ceci salati. A un tratto, mio cugino Josef Branko disse: «Non ci penso neanche ad andare a Sarajevo. Mi presento a Zloktsov insieme a Manes». «Bravo!» esclamai. «Perché anche a me sarebbe piaciuto fare come mio cugino. Ma io pensavo a Elisabeth». Pensavo a Elisabeth. Avevo solo 2 pensieri in testa, da che avevo letto il proclama dell'imperatore. Il pensiero della morte e il pensiero di Elisabeth. Ancora oggi non so quale dei due fosse il più forte. Svaniti e dimenticati al cospetto della morte, erano tutti i miei stolti timori per le stolte beffe dei miei amici. All'improvviso mi sentivo coraggioso. Per la prima volta in vita mia avevo il coraggio di ammettere la mia cosiddetta debolezza. Sicuramente già immaginavo che la frivola arroganza dei miei amici viennesi non avrebbe resistito al cupo fulgore della morte e che nell'ora dell'addio, di un simile addio, non ci sarebbe stato più posto per qualsivoglia sarcasmo. Avrei ben potuto presentarmi anch'io al comando del distretto militare di Zloktsov, a cui apparteneva il vetturino Manes e dove voleva recarsi anche mio cugino Josef Branko. In realtà, il mio intento era di dimenticare Elisabeth e i miei amici di Vienna, e mia madre, e consegnarmi al più presto possibile alla più vicina stazione della morte, ossia al comando del distretto militare di Zloktsov. Un forte sentimento mi legava tanto a mio cugino Josef Branko quanto al suo amico il vetturino Manes Reisiger. In prossimità della morte, i miei sentimenti diventavano più onesti, quasi più puri. Proprio come talvolta, di fronte a una grave malattia, idee e verità si fanno all'improvviso limpide, tanto che nonostante la paura, nonostante l'assillante presentimento del dolore che ci prende alla gola, si prova una sorta di orgogliosa soddisfazione per il fatto di conoscere, finalmente, la felicità, che si è conosciuta attraverso il dolore, e un senso di gioia perché il prezzo della conoscenza lo si sa in anticipo. Si è molto felici nella malattia. Io allora Non ero meno felice, considerando la grande malattia che si annunciava nel mondo, la guerra mondiale. Potevo, in certo modo, dare libero corso a tutti i miei deliri che altrimenti avevo represso. Ero in eguale misura affrancato e insidiato. Sapevo già che mio cugino Josef Branko e il suo amico Manes Reisiger mi erano più cari di tutti i miei amici di un tempo, fatta eccezione per il conte Choinitsky. L'idea che ci si faceva allora della guerra era molto semplicistica e piuttosto superficiale. Io almeno ero una di quelle non rare persone che credevano che ci saremmo schierati in ordine di battaglia, guarnigione per guarnigione, possibilmente compatti, e che, se non fianco a fianco, saremmo rimasti tuttavia a una distanza facilmente raggiungibile gli uni dagli altri. Mi figuravo, mi auguravo, di restare in prossimità di mio cugino Josef Branko e del suo amico il vetturino Manes. Ma non c'era tempo da perdere. Il tormento maggiore di quei giorni, anzi l'assillo, era il fatto che non avevamo più tempo. Non il tempo di godere lo spazio esiguo che ancora la vita ci lasciava, e nemmeno il tempo di aspettare la morte. A quell'epoca, anzi, non sapevamo veramente più se agognavamo la morte o ci auguravamo la vita. In ogni caso, per me e per quelli come me, furono quelle le ore della massima tensione vitale. Quelle ore in cui la morte non ci appariva come un abisso in cui un giorno si precipita, bensì come la riva opposta che si cerca di raggiungere con un balzo. E si sa come sono lunghi i secondi che precedono il balzo sulla riva opposta. Per prima cosa, come era ovvio, ritornai a casa, da mia madre. Era chiaro che non doveva quasi più contare di rivedermi, ma si comportò come se mi avesse aspettato. È uno dei segreti delle madri. Non rinunciano mai alla speranza di rivedere i loro figli. Non solo quelli creduti morti, ma anche quelli morti per davvero. E se fosse possibile che un figlio morto risorgesse davanti a sua madre, lei se lo stringerebbe così naturalmente fra le braccia come se non fosse ritornato dal mondo di là, ma da una delle lontane contrade di questo mondo. Sempre una madre aspetta il ritorno di suo figlio. Del tutto indifferente se questi se n'è andato in un paese lontano, in uno vicino o nella morte. Così, dunque, mi accolse anche mia madre quando arrivai verso la decima ora della mattina. Come al solito, era seduta nella poltrona davanti alla colazione appena terminata. il viso nascosto dal giornale e sul naso gli occhiali fuori moda con le lenti ovali cerchiate di acciaio. Quando arrivai, si levò gli occhiali, ma abbassò appena il giornale. «Riverisco, mamma», dissi. Andai verso di lei e le presi il giornale di mano. Mi lasciai cadere addirittura sul suo grembo. Lei mi baciò sulla bocca, sulle guance, sulla fronte. «C'è la guerra», disse, come se con ciò mi avesse comunicato una novità, o come se la guerra per lei fosse scoppiata solo nell'istante in cui ero arrivato a casa per salutare lei, mia madre. «C'è la guerra, mamma», risposi, «e io sono venuto per salutarti. E anche», aggiunsi dopo un attimo, «per sposare Elizabeth prima di partire per la guerra». «A che scopo sposarsi?» chiese mia madre. «Se tanto parti per la guerra». Anche qui parlava come parla una madre. Se doveva lasciare che suo figlio, l'unico figlio per di più, andasse alla morte, voleva essere lei sola che alla morte lo consegnasse. Né il possesso, né la perdita, voleva dividere con un'altra donna. Già da tempo mia madre doveva aver intuito che amavo Elizabeth, la conosceva bene. Già da tempo doveva aver cominciato a pensare con timore che un giorno avrebbe perso il suo unico figlio per cederlo a un'altra donna, il che a lei forse sembrava quasi peggio che cederlo alla morte. «Figlio mio», disse, «tu sei in grado di decidere da solo del tuo destino e sei l'unico che ne abbia il diritto. Vuoi sposarti prima di partire per la guerra? Lo capisco. Non sono un uomo, non ho mai visto una guerra, a stento ho un'idea della vita militare. So però che la guerra è qualcosa di terribile e che tu forse ci perderai la vita. Questa è l'ora in cui posso dirti la verità. Non posso soffrire Elizabeth. Anche in altre circostanze non ti avrei impedito di sposarla, ma non ti avrei mai detto la verità. Sposati e sii felice se le circostanze te lo permettono. E ora basta con questo discorso. Parliamo d'altro. Quando prendi servizio? E dove? Per la prima volta in vita mia mi sentivo confuso, anzi piccolo piccolo, di fronte a mia madre. Non fui capace di risponderle altro che un misero «Torno presto, mamma», che ancora oggi mi risuona negli orecchi come un insulto. «Vieni per il pranzo, ragazzo», disse come se al mondo non fosse successo nulla e come più o meno diceva da sempre. «Oggi a pranzo ci sono costolette e polpette con le prugne». Fu per me una sublime manifestazione dell'amore materno. Questa improvvisa irruzione delle miti polpette con le prugne nell'imminenza della morte, per dir così. Avrei voluto buttarmi in ginocchio dalla commozione. Ma allora ero ancora troppo giovane per dimostrare commozione senza vergogna. E da quella volta mi sono reso conto che bisogna essere ben maturi e perlomeno avere molta esperienza per mostrare un sentimento senza l'impedimento della vergogna. Baciai la mano di mia madre come al solito. La sua mano non la dimenticherò mai. Era delicata, sottile, percorsa da vene azzurrine. Attraverso i tendaggi di seta rosso scuro, la luce del giorno, delicatamente smorzata, fluiva nella stanza come un ospite silenzioso, quasi in abito da cerimonia. Anche la mano pallidissima di mia madre riluceva rossastra, in una sorta di scarlatto verecondo, una mano benedetta, in un guanto trasparente di filtrato sole. E il trepido cinguettio autunnale degli uccelli del nostro giardino era per me pressappoco così consueto e a un tempo stesso così estraneo come la ben nota mano di mia madre, velata di rosso. «Non posso perder tempo», dissi soltanto. Andai dal padre della mia amata Elisabeth.